9:51 minuti primi, le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa. E cioè gli 87.9 della banda romanellaziale. Dal 1977 nell'etere. Questo è il momento di 25 o'clock che inizia di getto, come non succedeva da tempo immemore, causa perdita di memoria, non la nostra che abbiamo smarrito già da tanto tempo, lo sapete. Ovviamente non la memoria storica, quella lunga, quella non ce la facciamo a perdere, bene incastonata, immersa nel vissuto. Ma invece quella quotidiana, proprio quella delle cose speech, quella di come si dicono le parole, il senso, il significato, insomma quella della... come si dice, dalla senilità. E perciò, insomma, abbiamo perso insieme alle tante cartelle, che comunque non disperiamo che vengano recuperate, anche 20 anni, giù di lì, forse pure qualcosa di più, sicuramente qualcosa di più. E gingelini, stupidaggini, cose che eravate abituati ad ascoltare all'inizio trasmissione. E perciò ci sentiamo un po' sperduti, perché in realtà, appunto, chi è venuto da queste parti, in questa fascia oraria, sa che siamo affetti da una forma di autismo, per cui non si può trasmettere se non abbiamo tutti gli oggetti messi in una certa maniera, se non vengono selezionate alcune tracce in maniera... alcuni di questi, appunto, stupidaggini che mettiamo all'inizio trasmissione con una determinata sequenza, insomma, come se fosse il primo giorno di trasmissione radio, ci sentiamo di improvvisare, va. Perciò passiamo subito a quanto è indispensabile dire nell'incipit della trasmissione, di tutte le trasmissioni, cioè di stare ascoltando non proprio una radio qualsiasi, ma una radio, appunto, dicevo, dal 1977. Trasmette incredibilmente, senza l'ausilio di padroni, padrini, finanziamenti. Gli unici grandi, veri finanziatori di Radio Onda Rossa siete tutte e tutti voi, che con i vostri contributi a vario titolo e in varie forme permettete a questa emittente di esistere e di trasmettere anche e di comunicare. Perciò vi ricordiamo il numero del conto corrente postale della radio da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Meglio e più diffusamente di me sa fare il sito della radio www.ondarossa.info. andate su Sostieni, si apre una paginetta dove ci stanno tutte le indicazioni precise e scritte per poter continuare a far vivere la radio. sito anche quello colmo comunque delle attività che la radio produce, quindi i podcast, le registrazioni di tante trasmissioni e di tanti momenti salienti della radio, le corrispondenze. E poi vi ricordiamo anche i contatti della radio, cioè ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione, e poi i social, e poi 25oclock@ondarossa.info che è la mail per disturbare il sottoscritto, ed infine 06491750, telefono di Radio Onda Rossa da sempre. quindi siamo andati a ripescare questo Souljacker, lavoro del 2001 per Mark Oliver Everett, in arte Hills. Questa uscita coadiuvato da John Parish. Che suonava con la band di PJ Harvey. 2001 è il primo disco che ci è capitato sotto mano di Hills. Nel periodo in cui imperversava Beck Hansen. Anzi, nell'epoca prima della diffusione, ci viene da dire diffusa, della diffusione sistematica della musica su internet, un disco che ci arrivò direttamente dagli Stati Uniti e che comunque all'epoca, insomma, per il tipo di sonorità che proponeva, era senz'altro dirompente, in quanto appunto alternava queste ballads a momenti più rumorosi. Poi pian piano recuperammo i quattro dischi precedenti e anche qualcuno successivo, poi in seguito continuammo a seguire Hills. Ma penso che questo Souljacker, al di là di tutto, è quello interessante e più riuscito. Passiamo a parecchi anni dopo, 2019, uscita, l'ultima uscita che noi abbiamo avuto modo di ascoltare. Poi ci sono state anche un paio di uscite successive per Patrick Carney e Dan Auerbach. Cioè, coloro che conosciamo meglio come The Black Keys. Poi ne sono usciti due successivi nel 2021 e 2022. Ma già da questo lavoro The Black Keys si fanno aiutare, introducono addirittura un basso a quella che era la loro tradizionale essenzialità della chitarra più batteria. Abbiamo selezionato da questo Let's Rock le ultime due tracce, Under the Gun e Fire Walk With Me. Radio Onda Rossa 25 o'clock, e poi si faranno due chiacchiere, dai. Run me down, and the love. The Fast, afferralo veloce o qualcosa del genere, per The Ultra Bimbos. Salla al bass, Maria guitar backing vocals, Suffeli, Suffeli anzi, alla voce, alla chitarra, e Milla alla batteria e ai cori. E già dai nomi dovreste aver capito che si parla di allora giovanotte o giovanette. Che cantavano in suomi, cioè in finlandese, perché da lì venivano. Sì, e sotto queste note non possiamo, oppure dobbiamo dire due parole pure su la vicenda di Ilaria Salis, perché purtroppo pure noi ci stiamo appresso a queste cose e seguiamo un po' quello che è la notizia del giorno. Sapete che per la radio, per noi, non è affatto la notizia del giorno. Abbiamo seguito la vicenda di Ilaria fin dall'inizio, cioè da quando fu arrestata più di un anno fa. Sapete che appunto in Ungheria è presente una repressione istituzionale sistematica da parte delle istituzioni, appunto, e del governo di Orban, di tutta quella che è le rivendicazioni LGBTQI, insomma, e le richieste così di poter vivere normalmente e in libertà le proprie identità, il proprio vissuto quotidiano. Le proprie scelte, le proprie decisioni, il proprio stile. E affiancato a questo ci sta appunto, oltre alla testa istituzionale, ci sta proprio la testa neofascista, neonazista, che come nel migliore dei casi, nelle migliori tradizioni, si prende la delega a poter mazzare quelli che sono i movimenti. E perciò veniva richiesta la presenza internazionale, veniva cercata e arrivava la solidarietà un po' da tutta Europa. Rispetto a questa situazione piuttosto pesante, e in quell'occasione furono arrestati un po' di compagni, fra e compagne, tra cui Ilaria, che poi alla fine rimase intrappolata in quello che era così, da una parte un meccanismo kafkiano della giustizia, cosiddetta giustizia, e dall'altra parte proprio una contesa internazionale, ma piuttosto una dimenticanza, un lasciare proprio. Visti anche i governi che c'erano da queste parti, nemmeno pretendere quelle che sono le normali, così, formalità di tipo diplomatico. Poi a causa di essenzialmente di una fotografia, poi di un niente. Che gli traeva Ilaria, costretta a indossare e a portare un paio di braccialetti, non proprio un paio di cavigliere, non proprio di quelle eleganti. È scoppiato il solito pandemonio, cioè è nata la notizia, una cosa che ci ricorda poi così abbastanza da vicino a noi, che abbiamo, come dicevo prima, quella memoria un po' più storica, diciamo, ma qui nemmeno parliamo di storia, parliamo di attualità, e cioè del caso di Alfredo Cospito che abbiamo seguito. Anche questo, fin dall'inizio, di Alfredo in sciopero della fame, ma anche di quello che delle proteste che Alfredo aveva intrapreso prima rispetto alla fine del 41 bis e del carcere speciale. E lì, con colpevole ritardo, scoppiò la notizia, in quel caso lievitò fino a diventare per giorni le prime pagine, il primo caso nazionale ed internazionale. Ecco, di tutta questa vicenda dobbiamo trarre principalmente un insegnamento. Sappiamo che la repressione e la gestione della repressione è tale nei paesi occidentali, siano essi retti da Orban, dalla Meloni o da chi più ipocritamente si appella di sinistra, ecco, di tutta questa roba ci viene la pelle d'oca, ci viene una rabbia interiore, una insopportabilità del presente, dell'essere in questo paese di merda, in questo occidente di merda, sia esso di Orban, sia esso della Meloni, che fa della ipocrisia proprio il suo elemento distintivo. Poiché ci si dimentica che normalmente in Italia, quando si è condannati, certo non per i reati, e lì sta l'esagerazione, contestati a Ilaria, che sono comunque reati invece effettivamente lievi. Diciamo, in Italia per reati penali importanti si viene condotti in carcere con le mani incatenate e una catena che le lega e che viene sorretta da una guardia, come si dice, da un accompagnatore in divisa, ecco. E questa è la norma, questa è la prassi. Vi invito perciò a fare una breve ricerca su internet, invito tutti, i compagni e le compagne già lo sanno che è così, però tanto così, per farsi salire un po' di rabbia, a andare su un qualsiasi motore di ricerca e scrivere Sceppi processi Italia e troverete, magari mettete immagini, così per selezionare troverete un una lunga sequenza di imputati, imputate, costretti anche con i ceppi, che è ancora peggio, perché al di là dei ceppi sono appunto degli oggetti, dei ferri fatti in una foggia particolare a U, stretti con dei bulloni. Con cui gli imputati e le imputate venivano portati a deporre o a testimoniare o ad assistere a quelli che erano i loro processi. E questo avveniva che essi fossero imputati di mafia o di terrorismo, come si suol dire, compagni e compagne che fecero la lotta armata. Questa è la realtà. Non c'è da scandalizzarsi più di tanto, c'è da combattere e lottare per far uscire Ilaria e tutte queste. Questi detenuti e detenute che ancora oggi sono costretti a questa forma umiliante. E non è senz'altro poi la parte più brutta, credo. E credo anche che così di poter dire che Salvo si sarebbe incazzato tantissimo di tutta questa vicenda e dell'ipocrisia appunto con cui si ciancica la notizia. Scommetto che fra qualche giorno, fra un paio di settimane, tutto sarà dimenticato e tutto resterà come prima. Lo scopo così politico di fare di creare un po' di maretta, di fare un po' di battibecco è stato raggiunto. E ci dimenticheremo di detenute e detenute, di Ilaria in Ungheria, in Italia, ogni altra parte del mondo, in Turchia, in Israele, che vedevo di. Vi dico che vi rimando di nuovo Hills. Ovviamente era previsto Media Control, però di Freddie Williams e delle Plutonium Baby, per cui Media Control era quello che volevamo mandare. Intanto trilla lo 0649 1750 e noi andiamo avanti, dicevamo, con Hills, Joshua Witness. Just when I'm feeling good, I look at you soon. You're rocking up and you're very nice too. Spencer Blues Explosion, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, quando sono le 23 e 34 minuti primi. Volete, stasera c'è presa così. sì, perché andiamo ad anticipare, stiamo cercando i contatti, è proprio in diretta ora, per magari sentirli un attimo comunque. Ve lo anticipiamo già da ora, sapete appunto quanto sia il nostro legame importante e profondo con un pezzo della storia di questa radio, cioè quella di Roberto Patata, e che intorno al 15 febbraio si cerca di mantenere appunto la memoria di Roberto viva. E spesso si moltiplicano con alterna forza. Le iniziative atte a questo. E quindi vi anticipiamo per ora, poi appunto stiamo cercando i contatti giusti per sentire delle vecchie conoscenze di questa radio e nostre personali per quanto riguarda il concerto appunto che si terrà al The Frag il 16 febbraio 2024 via delle Usole Curzolane, concerto per Roberto, direttiva 16, Claxon, con il grande Sergio Sergione. E poi Bloody Riot e Giuda, e poi un DJ set a seguire di Bravi Ragazzi di San Lorenzo. Patata abita qui, era la scritta che campeggiava la testata di Via dei Volsci. Insomma, avremo modo di parlarne ancora più precisamente, più diffusamente in avanti, in questo paio di settimane. Non credo che riusciremo a fare la trasmissione solita proprio il 14-15, quest'anno cadeva 14 di mercoledì, il 14-15 febbraio, per nostri impicci personali. Cercheremo comunque di replicarla poi invece verso fine febbraio, però per intanto appunto volevamo un po' lanciare pure questa iniziativa. .339, andiamo avanti. Lasciamo Joe Spencer Blues Explosion e andiamo a una super band che si chiamavano i Delta 72. Stiamo parlando di Jason Kurkunis, Greg Foreman, Mark Boyce e Bruce Russell Rankin. E rispettivamente Mark Boyce all'Armond più alle tastiere, Greg Foreman alle chitarre, alla voce, Jason Kurkunis alle percussioni e al kit batteria, insomma. E Bruce Russell Rankin al basso. Questo lavoro, che credo sia unico, cioè sia stato pubblicato solamente questo disco dai The Delta 72, se non andiamo errati e se non ci perdiamo qualcosa, ultima ammaliante traccia, decima traccia, Sand Secret Prince, The Delta 72 a Radio Onda Rossa 25 o'clock. We'll be right back. luck, dresses up a lot. What will she get? A little cat in blue, who's got nothing left to lose. What does he choose? Infatuating games, where does it go? wore boots upon his feet. Look both ways before you cross the street. Are you flying like a superstar? Off the third of some offending car. The ambulance came right away. Across the street I heard him say, "Al, I got hit by a car. You're a good friend, Al, that's what you are. Cross that street below, you can't keep him down. Who will mind the store when Kyle's out of town? Cross that street below, you can't keep him down. Who will mind the store when Kyle's out of town?" I got hurt pretty bad. I guess he earned his victim badge. He's an Eagle Scout with broken bones. Eating Fergus, that's an ice cream cone. 9:30 club seemed far away, but I swear I still can't hear him say, "Al, I got hit by a car. You're a good friend, Al, that's what you are. Cross that street below, you can't keep him down. Who will mind the storm when Kyle's out of town? Cross that street below, you can't keep him down. Who will mind the storm when Kyle's out of town?" 23:58 minuti primi. Radio Onda Rossa 25 o'clock, abbiamo ascoltato Calibro 35 prima con la loro Stan Lee Alternative Instrumental. Un lavoro di un paio d'anni fa, invece siamo tornati al 2003 per questo live dei Moe. I Moe sono una di provenienti da Buffalo, nello stato di New York. Una di quelle formazioni che suonano la qualunque e suonano per tanto tempo dei live, andando poi a improvvisare partendo da dei canovacci. Molti fanno risalire questa modalità di suonare delle jam band ai Grateful Dead, ma tanti sono gli esempi che è un genere, è proprio un modo, un'attitudine di suonare. Poi si spazia fra i stili, senz'altro stiamo parlando sempre di musicisti di grande, grande, grande valore, dediti alla improvvisazione, al piacere di suonare, e spesso nemmeno poi riconosciuti come tali. Praticamente la formazione è quasi tutta rimaneggiata in questi lunghi anni in cui hanno suonato, dal 1989 fino ad oggi: Rob Dyrdek, Chuck Garvey, Al Shearer, Jim Loudon, Vincent Amico, all'attuale formazione e composizione di The Moe. E si spazia, dicevamo, proprio fra i generi, il tutto condito da una sapiente spolverata di disturbi psichedelici. Comunque, insomma, il genere veramente spazia fra tutti i modi di suonare, dal rock al rock strumentale, al progressive, alla psichedelia, dicevamo prima, tanto funky. In questo lavoro c'è pure così una traccia con i ritmi in levare, quindi un ammiccare addirittura la musica giamaicana. Wormwood, quindi il lavoro del 2003 per Moe, I Vermi del Legno. Sulle stesse frequenze, con la stessa attitudine, appunto, dicevamo prima, benché appunto non siano dediti poi a concerti di 3 ore, almeno crediamo 3-4 ore di live, troviamo White Damon, sempre dagli Stati Uniti, e poi ci dicono che siamo anti-americani, White Damon, da cui estrarremo due tracce dal loro lavoro che si chiama T, credo che si chiami T, Varnished la seconda traccia e At The Farm la terza. Quindi Radio Onda Rossa, White Damon. Dai. immensi White Damon. Sì, ci eravamo esaltati e ci siamo anche dimenticati di così entrare a tempo sulla traccia come necessario fare durante la conduzione in radio. Cambiamo genere, come si suol dire in questi casi, magari aggiungendo anche l'aggettivo decisamente. Che poi è un sostantivo. Undici minuti dopo la mezzanotte abbiamo parlato e abbiamo ascoltato più volte, fra cui anche questa sera, alcune tracce di quel personaggio chiamato chiamato Velester. Proveniente non tanto da un luogo fisico, ma da un tempo differente da quello odierno, il nostro. Ne abbiamo un po' descritto l'aspetto in varie occasioni. Aspetto di uno di quelli che venivano chiamati barbari nella prima Roma repubblicana, e cioè le popolazioni così adiacenti, al di fuori della cerchia di quelli che erano i possedimenti di Roma, popolazioni con cui invece in realtà poi Roma si contaminava via via, che andava espandendo la sua influenza. Perché è un po' quello poi è l'aspetto dell'imperialismo e del dominio, l'accentramento dei poteri ai danni poi di chi viveva tra virgolette libero. E quindi tutte le popolazioni italiche di quel tempo, Velester viene da quel tempo là. Esattamente nel 2024 avanti Cristo, ben prima. Della Roma repubblicana e della Roma monarchica. Anche se all'epoca si parlava di re più che di monarchia. Va bene, insomma, ci è arrivato questo nuovo lavoretto che viene già diffuso comunque anche sulle piattaforme più comuni. Quindi andate a cercare Velester su Bandcamp. Un demo quindi per lui o per loro, ancora non abbiamo ben inteso quale sia la combinazione che permette poi di far uscire questi suoni. Vi anticipiamo che non sappiamo se addirittura già la prossima settimana o magari più in là potremmo proporveli live. No, live che suona, noi gliel'abbiamo chiesto a Velester, ma per ora ci ha risposto Pic. Comunque, insomma, a parlare diffusamente di questo personaggio, vediamo se potremmo farlo già dalla prossima settimana. Per ora ci andiamo ad ascoltare una traccia che già avevamo proposto in una forma più grezza, meno manipolata, meno precisa. Antiquarium si chiama. E quindi in anteprima mondiale assoluta, totale, quello che vi pare. Velester, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Antiquarium. Oh, 24 minuti dopo la mezzanotte, palcoscenico Neon, Bianchezza. Lavoro di fine 2013. Per pochi secondi, per palcoscenico a Neon, lo presenteremo, sì, presenteremo, vabbè, insomma, presenteremo, dai. Prima o poi verranno qua, fra la loro poderosa tournée, fra un impegno e l'altro. Non mancano mai di inserire una cover nei loro... nelle loro compilazioni. Questa volta è stata la volta di Pierangelo Bertoli, palcoscenico al Neon, Ciccio alla voce, audivato, come si dice? Coaudivato. Troppi dittonghi, difficilissimo da dire a quest'ora di notte. Da Daniele Coccia. Per i pochi sprovveduti che non lo sanno, Sargeri e poi il muro del canto, e quindi saltiamo palcoscenico al Neon, andiamo a presentare sabato 3 febbraio 2024 Forte Prenestino a Roma. Colonia nostra, Sardegna occupata fra anticolonialismo, antimilitarismo e arte. Potete andare a leggere il programma completo, piuttosto lungo, sul sito del Forte Prenestino, www.forteprenestino.net. Comunque scenderanno compagni e compagni dalla Sardegna. Presentazione di libri più conversazione, presentazione di documenti più conversazione, concerti, andiamo alla parte concerti, così è quella che più attiene a agli spazi, tra virgolette, musicali della radio. E quindi hip hop dalla Sardegna, Bugis Bex, Braxa, Dr. Dre e CRC Posse, e poi Assalti Frontali. Abbiamo detto la paroletta magica, e per cui anche in virtù del fatto che Luchino ha presentato appunto la di lacrime di attese, la parte della sua partecipazione a colonna sonora, mi aspetto che la di un recente film documentario portandomi con lei Assalti Frontali, la luce, io disegno il mio spirale, il mio nome è Lala, vuote le parole. Percorso lineare, perciò facciamo. A 5 anni in casa anch'io leggevo Cinderella, in strada tutti mi chiamavano la Zingarella. A me non importava, nel cuore una corazza, la mia famiglia è forte e io ero la più pazza. Crescevo in una terra libera, figlia del vento, in una terra cancellata da ogni documento. Sui bordi delle fogne e gli alberi di prugna e fiore, scappando da mia nonna non do un limite al mio cuore. Il mondo cambia, 18 anni, un figlio nella pancia, non mi aspettavo di sposare mica il re di Francia. L'amore è un'illusione breve, il tempo di un caffè, lo so, e so che conto solo su di me, ma la legge è ingiusta, la legge non mi aiuta. Spingo la carrozzina in strada e sto attenta e muta. Mio figlio è nato da una bandita nella sala, un parto naturale, ma sono illegale e il mio nome è Lala. Siamo partiti in tempo via da questa guerra, siamo impazziti tutti ed ora che sto a terra. Sono viva a testa alta, vado in sole in cielo, so che io non cado e cammino senza avere una certezza, e lui ancora non lo sa, il mio bambino.

35 minuti, 36 minuti ora dopo la mezzanotte, abbiamo blaterato abbastanza per questa notte. E quindi mestamente ci allontaniamo. Dai microfoni, dalla console, dal mixer, dai computer mezzi sfornati. Così, per sottolineare anche quanto abbiamo così detto a inizio trasmissione, free all antifas. Rispondiamo alla chiamata solidale, non lasciamo soli e sole i compagni e le compagne antifasciste e antifasciste sotto processo, detenuti e ricercate. Manifestazione 10 febbraio a Roma, prendete nota. Ricordiamo le autoproduzioni di Radio Onda Rossa, che servono anche a far sì che la radio possa trarre il proprio finanziamento per continuare a trasmettere, quindi la scarceranda 2024 e il calendario della radio dedicato quest'anno a Gaza. Li troverete negli infoshop più importanti di Roma, nelle librerie di movimento. Alle iniziative a cui la radio prende parte o di cui è promotrice con il banchetto apposito della radio, oppure qui a Via dei Volsci 56. Detto ciò, lasciamo Baracca e Burattini, la compagna automatica Sonata, che vi delizierà con le repliche e con le sue bizzarre selezioni musicali fino al palinsesto, l'inizio del palinsesto in diretta del giovedì mattina. Alle 8 si riprende quindi con le letture delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa. La rassegna stampa cittadina si segue coi redazionali. Fino all'ora di pranzo, breve pausa dalle 14 alle 16, tutta scena, cinema alle 16 alle 17, Attica Blues oltre alla Black Music. Alle 17 giù di lì, la Schiena del Soul. Li abbiamo risentiti, tornati e tornate in splendida forma proprio le scorse settimane. Un saluto quindi a Mariano Ammartis e a l'allegra compagnia anche di redattori più o meno fissi o più o meno occasionali di La Schiena al Sol. Tabula rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e poi a chiudere i cuginetti di Apostasia dalle 22, ma è proprio da palinsesta, le 22 iniziano più tardi. fino a che gli va di trasmettere. Radio Onda Rossa 06 491 750, ricordiamo di sostenere, di sottoscrivere per la radio 61 80 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale 2001 via dei Volci 56 00185 Roma San Lorenzo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personale, carcere, aggiranza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti e soggetti a tutte quelle forme di repressione palese o impalpabile che però ci dannano l'esistenza, la vita. Sotto controllo tutti e tutte. Ebbene, che lo sappiamo e lo sappiate. Per questo motivo noi finiamo con Fuck Button e poi ce ne andiamo sotto la luna comunista, under a communist moon. Bella a tutti e tutte. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Sister. dreams, I'll share our dreams, I'll share our dreams under a communist.